Ma mi è sembrata più che altro una zitella isterica in crisi d'astinenza. Il livello della dialettica politica espressa da Pulvirenti si qualifica da sé, non devo aggiungere altro perché siamo tutti capaci di qualificare questa cosa. Le scuse le posso anche ricevere, però l'umiliazione è stata tanta, ho subito tanti danni, insomma non lo so sinceramente se potrei accettare le sue scuse. Tutti convocati di Carlo Genta. Possiamo salutare loro? Torni, noi dobbiamo torni andare... Stefano? Torni più tardi? Non lo so. Ti posso convocare? Ciao a tutti, Franco Piantanita, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. È finalmente un sano lunedì di casino all'italiana tra polemiche arbitrali, discussioni d'antan sulla provenienza dell'arbitro dell'altra sera di Juventus-Genoa, inciuci di mercato, allenatori a rischio. Finalmente ci stavamo annoiando a morte ed ecco finalmente il lunedì che tutti voi convocati aspettavate, e infatti il vostro numero è lo stesso: 800 24 00 24. Se io ascolto determinate cose, un vergogna mi sembra un minimo, il minimo che io possa dire. Ma c'è da dire, guarda, lasciate stare, lascio il patentino, me ne vado. Non me la sono sentita, onestamente non l'accetto, mi dispiace, poi Guida è sicuramente uno tra i migliori arbitri, tra i più giovani, non l'accetto che mi si dica non me la sono sentita. Ah, era rigore, ma pure un cieco vedeva una cosa talmente lampante che ha visto tutti, cioè che doveva dire... Io no, mi getto in scivolata e mi butto così. Scusami, e faccio Antonio, sto sulla piazza. Antonio, tu hai giocato, hai giocato il calcio e lo sai benissimo. Ma di che stiamo parlando? È una bella carrellata, no, di Antonio Conte, ma secondo voi quante giornate di squalifica merita per questo? E soprattutto, secondo voi, non è segno di debolezza fare quella sceneggiata? Intanto per Granqvist potrebbe esserci il premio del passaggio al Galatasaray dei sogni. Ho sentito anche questa trattativa di mercato, le notizie del giorno sono due. C'è l'offerta del Milan per Balotelli, 24 milioni pagabili in 8.000 rate, no, poi sarebbero 6. Però questo è ufficiale, e Sabatini che a Roma dice il lavoro di Zeman è soddisfacente per alcuni aspetti, meno per altri, stiamo valutando anche la possibilità del cambio di una guida tecnica. Saluto e ringrazio direttore Giancarlo Padovan. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Da dove vuoi partire? Da queste notizie di oggi, Balotelli vicino al Milan tanto che i buchi hanno sospeso le scommesse e Zeman che è al passo da Dio, oppure andiamo su Conte? Ti lascio la scelta. Ma io, insomma, su Conte mi pare si sia detto tanto, quasi tutto. Domani era rigore? Per me è rigore quello, perché io non credo in un'involontarietà per un giocatore che alza due braccia così e fa un volume enorme. Quindi per me quello è calcio di rigore, ma era calcio di rigore nella maniera solare ed estrema anche quello di Vucinic. E siccome quello di Vucinic viene prima, secondo il mio punto di vista, allora... Poi vediamo come vanno le partite, perché sai, non si può fare come fa Conte, dice ce n'erano tre per noi e due per, e uno per gli altri. No, si danno i rigori quando ci sono, e a seconda del momento in cui si danno poi le partite possono anche cambiare. Bravissimo. Non sono più le stesse partite, secondo il mio punto di vista. Comunque, detto questo, tanto ormai su Conte, vediamo domani quali saranno i provvedimenti, perché... Quali possono essere, secondo te, direttore? Beh, una squalifica... per almeno una giornata nei confronti di Conte. E poi non so cosa abbiano detto gli altri giocatori e cosa abbia notato l'arbitro, ma di sicuro c'è Conte che va reiteratamente due volte dal direttore di gara minacciandolo con l'indice sotto al naso e non credo dicendogli cose simpatiche. In più c'è un'affermazione che Conte fa che è stata smentita dall'arbitro guida a proposito del fatto che non se l'è sentita. L'arbitro guida dice di non aver mai detto una cosa del genere, se l'avesse detta ovviamente sarebbe suicida. Ecco. Quindi parlerei del mercato, sinceramente. Sì. E io ti dico, comincio a pensare che quella di Balotelli sia una trattativa vera. Ecco, comincio a pensare questo perché e lo penso anche perché ho letto da più parti, su Repubblica, sul Corriere, eccetera, che una trattativa pro Milan con un grande nome non lascerebbe, come dire, indifferente l'elettorato di Berlusconi a meno di un mese dalle elezioni. Quindi credo che sia abbia una doppia valenza questa operazione, se si farà, perché c'è sempre da fare i conti con il Manchester City. Attenzione, che è una società molto risoluta, non ha bisogno di denaro, non si fa prendere per il naso, detesta quando i giocatori tipo Tevez si mettono d'accordo prima con la società che li vorrebbe acquistare e poi perché è capace di assumere delle posizioni molto, molto dure, molto risolute, quindi non cede. Però mi sembra che ci sia anche da parte del City ormai la resa nei confronti di un giocatore come Balotelli. Cioè, penso che se le offerte saranno soddisfacenti o almeno giudicate soddisfacenti, Balotelli partirà. Sì. Già questo castello di carte era riuscito l'anno scorso a Galliani con Tevez prima del soffio dei Berlusconi che lo spazzarono via, quindi Galliani da questo punto di vista è abbastanza un mago. Su Zeman invece? Zeman è davvero al passo da Dio, perché sono volati i piatti e gli stracci. Fino a questa mattina non ci credevo, ti dico la verità, e non ci credo neanche adesso. Mi sembra ma non perché non ci credo, perché non credo alle notizie. Le notizie sono quelle che tu hai riferito e le parole di Sabatini sono inequivocabili, inequivocabili, molto eloquenti. E quindi credo che sia possibile. Però mi sembra strano, perché l'anno scorso la società difese fino alla fine Luis Enrique, che andava più o meno come Zeman. Oddio, aveva un punto in più, ma non era questa la differenza. Si era fatto eliminare dall'Europa League, non era in Coppa Italia, mentre Zeman insomma in semifinale di Coppa Italia. Credo che la rottura sia imminente, temo proprio di sì, ma la Roma va a cacciarsi in un buco nero, perché conoscendo Roma e la sua tifoseria, io credo che se domani qualcuno si presenta con Malesani o chi vuoi tu, insomma, non so chi ci possa essere qualche sostituto, insomma, non all'altezza, domani non dico che c'è la rivoluzione, ma quasi. Teniamo conto che Zeman per una parte è contestato, ma per la maggior parte è ancora amato, proprio per quello che lui è, per quello che lui rappresenta, al di là anche del rendimento oggettivo. Esatto. Direttore, ti ringrazio. Grazie a voi. A presto con Giancarlo Padovan, 800 24 00 24. Voglio sentire le vostre voci, voglio leggere i vostri messaggi, anche se quelli arrivati fino adesso sono per la maggior parte così bizzarri e trascurabili. 349-238-6666. Voglio vedere le vostre reazioni su Twitter, dopo il traffico. Salve, piacere. È la prima volta che sento lei e mi fa molto piacere intervenire. Benissimo. Chi vuole che aspettiamo il traffico oppure come vuole? No, il traffico. No. Tutti convocati. Allora, c'è chi su Twitter mi bacchetta perché ho detto, non so quando, forse l'anno scorso, forse due anni fa, che il Napoli in quel terzo posto aveva raggiunto il massimo delle sue potenzialità. È chiaro che bisognava tenere conto di una concorrenza che adesso non è più sullo stesso livello. C'è chi scrive, ed è Donato Longo sempre su Twitter, che se Gagliani compra Balotelli in serata è un genio, e lo dice un interista, e io sono abbastanza d'accordo. C'è un ascoltatore, il primo di oggi, che chiama da Napoli, chissà cosa vorrà dirci. Ciro, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io ovviamente chiamo da Napoli e tipo Napoli. Volendo essere molto obiettivo su quanto accaduto sabato, mi chiedo come mai si è presa questa abitudine di dire l'arbitro proveniente da. Infatti, secondo me, è una sciocchezza. Sì, io parto dal concetto che se riteniamo tutti che la classe arbitrale sia imparziale al di sopra di ogni sospetto, non è insomma, non è importante da dove provenga l'arbitro. No, no, ma infatti secondo me è una sciocchezza d'antan, insomma, una specie di soprammobile d'antiquariato, perché se stiamo ancora lì a vedere da dove viene l'arbitro, da quale regione, da quale comprensorio, eccetera eccetera, me ne duole, ma secondo me Marotta non ci ha preso proprio per niente in questa situazione. Sì, inoltre non è la prima volta che le manifestazioni insomma di dissenso da parte della Juventus sono estremamente plateali. Si può chiaramente esprimere la propria opinione, ma i modi mi sembrano esagerati. Questo secondo me è il segnale più interessante, al di là delle valutazioni, delle polemiche che ci possono essere, dell'era o non era rigore, o due per me, tre per te, eccetera eccetera. Questo è il segnale più importante, perché quando si hanno i nervi così scoperti è evidente che questo, ma l'ha detto anche De Sanctis, che poi sentiremo, può essere un segnale di incoraggiamento per chi insegue, perché è una dimostrazione, a mio parere, di grande nervosismo e quindi, secondo me, anche un segno di debolezza, se vogliamo. Gianluca dalla provincia di Milano, e poi cominciamo a scalare il podio delle dichiarazioni della domenica. Gianluca, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere stato convocato. Sempre convocati tutti, 800-24-0024 ogni giorno, dica. Salve, io chiamavo perché sono rimasto anch'io un attimo colpito da tutte queste vicende del weekend. Io sono uno sportivo della Juventus e volevo un po' portare al centro dell'attenzione il fatto che comunque quando la Juventus ha qualcosa da ridire, tutti quanti poi subito la tacciano di essere antisportiva, quando in realtà anche tante altre volte altri presidenti proprio contro la Juventus hanno usato ben altri termini. Sì, possiamo andare a Catania, possiamo tornare a Catania quando tutte le volte che vogliamo, insomma, no? Poi per quanto riguarda l'ultima annotazione che faceva l'amico che chiamava da Napoli, c'è proprio un sito internet molto vicino a Napoli dove ha pubblicato un'intervista questo arbitro, dove si diceva che lui aveva giocato nelle giovanili e poi aveva sempre a cuore i risultati del Napoli. È ovvio che a pensar male quasi sempre ci si azzecca, però non è che tutte le cose sono così poi campate in aria, no? Ma io trovo che nel 2013 siano veramente dichiarazioni d'antan queste, cioè sulla provenienza del Napoli, anche perché sulla provenienza campana dell'arbitro guida e su queste cose, perché nel 2013, nell'epoca dell'iperprofessionismo, ma poi vogliamo che i designatori non conoscano vita, morte, miracoli di quelli che vanno ad arbitrare. Secondo me questa è una polemica un po' di retroguardia, io dico la verità, almeno a me fa questa impressione. Poi non lo so, valutatela voi, probabilmente non sapremo mai se l'arbitro guida effettivamente sia tifoso del Napoli o non sia tifoso di un'altra squadra, abbia giocato nelle giovanili. Non ho letto quell'intervista, non la conosco, però ripeto, vista così mi sembra una polemica un po' di retroguardia. Allora scaliamo il podio delle dichiarazioni domenicali a partire dal terzo gradino, dove si colloca Massimo Moratti, che fa un raffronto tra la reazione di Conte e quelle che erano di Mourinho. Valutate voi. No, Mourinho non l'ho mai visto andare a aggredire gli arbitri così, mai. Mourinho può aver fatto il gesto delle manette, ma non l'ho mai visto aggredire gli arbitri. Ma insomma, cioè, gesto delle manette o aggressione verbale, insomma, non mi sembrano poi così lontane. Poi sinceramente non ricordo tutte le partite di Mourinho all'Inter, però con gli arbitri ha sempre avuto anche lui un atteggiamento così, non di, di ottimi rapporti, soprattutto nei momenti più delicati della sua gestione. Luigi Roma, buongiorno. Luigi? Sì? C'è? Buongiorno. Sì, sto qua, sto qua. Eccolo là, dica. No, niente, io volevo dire, prima base troppi soldi girano. Secondo, troppe poche, gli danno troppe poche ammonizioni, cioè poche... Perché adesso a Conti minimo dovrebbe dare 10 giorni di squalifica agli, agli giocatori, minimo 5-6 giorni e non si va avanti. Poi un'altra cosa, sì. Allora, Luigi, stanno lì. Luigi, 10 sì. giornate mi sembrano troppe, non so cosa Conte abbia detto. Però tu sei un professionista, devi essere professionista, no? Sì. Allora, professionista sei. Sì, scusa, no? Va bene, professionista vale per tutti, però sappiamo che è un che c'è dell'agonismo in gioco, sappiamo sì, anche che non siamo in un ufficio postale. Scusa, sei un birra, no? Scusa, allora sei professionista sei. No, ho capito, però appunto non siamo nell'ufficio di un commercialista, siamo in un contesto differente, però io sono d'accordo con lei nel senso che vorrei vedere un po', anzi molta più severità degli arbitri nei confronti di queste aggressioni verbali, di questi capannelli che si formano, ma non sempre per un rigore, certe volte capita anche per un corner. Quindi c'è molta, c'è troppa dialettica secondo me sui campi italiani tra giocatori, arbitri, allenatori, eccetera, eccetera. Ce ne vorrebbe un po' di meno e io sarei d'accordo su una così gestione più rigida di questa dialettica da parte degli arbitri. Al di là delle 10 giornate di squalifica che mi sembrano francamente eccessive, e poi teniamo conto per l'appunto che siamo in un contesto diverso da quello che viviamo noi tutti i giorni in una redazione, magari qualcuno di voi in banca o in posto in un ufficio pubblico. Entrano altre componenti, ecco, entrano altre componenti dall'adrenalina all'agonismo, eccetera, eccetera. Questo è da... non per giustificare nessuno, però questo è un fattore da considerare. Secondo gradino è per De Sanctis. Una grande squadra come la Juve, credo che il fatto di andare sotto pressione non possa infastidirla più di tanto, anche se tutto quello che è successo ieri dopo il fischio finale mi fa pensare al contrario. Tutte quelle reazioni e quelle chiacchiere che sono state fatte da parte di tesserati della Juve dopo il fischio finale, secondo me andrebbero analizzate molto molto dettagliatamente, mi auguro che le istituzioni lo facciano bene. Ho sentito pronunciare la parola vergogna, chi stava a casa credo che quell'aggettivo lì, quella parola lì l'abbia potuta anche considerare molto azzeccata per tutto quello che è successo soprattutto dopo il 94esimo. Vabbè, De Sanctis mi ricorda quei giocatori che con pessima abitudine chiedono l'ammonizione degli avversari, però c'è il punto importante di cui sopra e che è da considerare, cioè la Juve ha i nervi scoperti e questo non può che far piacere e dare maggiore fiducia al Napoli che insegue correndo molto più leggero. Marco Milano. Ah sì, buongiorno, complimenti per buongiorno. La trasmissione. Grazie. Io volevo dire che secondo me l'arbitro della partita di Juventus-Genova poteva vedere benissimo il rigore che c'era sul Genova, sul fallo di mano, perché nella prospettiva, se lei guarda le immagini, era proprio lì davanti. Mentre la trattenuta di maglia su Vucinic, l'arbitro era coperto benissimo, cioè da tutti i giocatori. Sì. Il guardaline è concentrato sul lancio della palla, lui deve guardare il fuorigioco e poteva anche vederlo, però cioè il guardaline non è facile, cioè lui si concentra sul fuorigioco, sulla palla, sui movimenti dei giocatori. Il gomito di Vucinic? Il terzo uomo era di spalle. Cioè sì, sul gomito di Vucinic invece, che mi sembra chiarissimo, cosa possiamo dire? Sul gomito di Vucinic? No, io dicevo sul fallo, sulla trattenuta di maglia cioè il primo episodio di questa partita è quello, il primo episodio contestato, è quello del fallo di mano che mi sembra solare di Vucinic, che allora, su quella palla l'arbitro lo poteva vedere benissimo perché era proprio lì, se lei guarda le immagini. Sì, infatti, ma quello è il primo episodio, lo ricordavamo anche prima per dovere di cronaca con Giancarlo Padovan, poi diamo quel rigore, poi vediamo come va la partita, poi discutiamo sugli altri. Secondo me quello era un fallo di mano solare, quindi, ed è il primo episodio di questa gara, primo degli episodi contestati. Poi Marco, dell'altro, dica? No, io ho detto che quello della trattenuta di maglia, secondo me l'arbitro non poteva vederlo perché era coperto, il guardalinea non poteva vederlo perché si concentra sul fuorigioco, non è che può guardare tutti i giocatori, tutto quello che accade. E il terzo uomo, secondo me, aveva Vucinic di fronte e non poteva dire che era trattenuto dal dietro. Vabbè, comunque queste sì, sono valutazioni tecniche che poi adesso le abbiamo viste tante volte alla Moviola, abbiamo visto, valutato le posizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, sono considerazioni tecniche che ci possono stare. Andrei sul... Mentre Lorenzo su Twitter scrive che da Juventino spera in 10 giornate a Conte perché ultimamente ne azzecca poche, dagli spalti si vede meglio, questo scrive Lorenzo. Sul primo gradino del podio oggi ci finisce, ma l'ho detto prima, Beppe Marotta. L'arbitro guida di Torre Annunziata, provincia di Napoli, probabilmente era in difficoltà. Questo è pesante però, perché? No, non è pesante, perché sono giovani, quindi una designazione così difficile, se la si dà a un arbitro della provincia di Napoli... Diventa difficile proprio nel... No, simpatia, difficoltà. Sono difficoltà. Quindi in tutto sommato contesto anche la designazione, ma è una contestazione, ripeto, non c'è malafede, non c'è nulla. 800240024, resta il vostro numero verde, siete sempre tutti convocati, vi aspetto dopo la borsa. Tu sei un professionista, devi fare... Devi essere professionista, no? Tutti convocati. Allora, tra un po' di maleducazione imperante sul monitor di SMS, ma oggi nervi scoperti anche per qualche ascoltatore, 349-238-6666, anche un complimento come Paolo che scrive: come il processo di Biscardi fate schifo. Allora completiamo l'opera. Programmi che peraltro hanno fatto la storia del calcio italiano, non grazie a me che l'ho visto poco, ma grazie a milioni di italiani che l'hanno sempre seguito. Non vedo perché stiamo semplicemente chiacchierando tra amici di quello che è successo in un weekend finalmente di, come dicevo all'inizio, di sano casino all'italiana. Saluto e ringrazio il mio amico Marco Ansaldo per chiedergli tre cose ben precise, inviato editorialista della Stampa, perché ho letto attentamente il suo punto di oggi. Ciao Marco. Ciao Carlo. Come stai? Abbastanza bene. Allora, le tre cose sono queste. Punto primo, le dichiarazioni di Marotta ti sembrano opportune o ti sembrano una cosa un po' d'antan? Beh, come hai visto in quello che ho scritto oggi, non mi sembrano del tutto inopportune. E la cosa che mi lascia un po' perplesso è che vengano da una persona come Marotta che, sì, al di là del può operare bene o male sul mercato, per adesso sta operando bene, ma è comunque, mi sembra, una persona di buon senso. Quindi credo che sia stato mandato un po' avanti in prima linea a cercare di creare una situazione di allarme, in modo che la Juventus, che evidentemente teme delle manovre o qualcosa, intravede delle manovre, tenta di stoppare, però mi sembra un atteggiamento sbagliato, profondamente sbagliato. Allora, secondo punto, sono d'accordo soprattutto sulla, quando scrivi, ma l'ho detto anche prima, che la reazione sproporzionata e spropositata di Conte è benzina per il Napoli, cioè segno di nervi scoperti, di forse di un po' di timore, di qualcosa che effettivamente non gira. Beh sì, devo dire che ieri sera poi Conte agli Oscar del calcio mi hanno detto che ha gettato un po' di acqua sul fuoco, quindi sì, insomma, evidentemente Conte è uno così, è fumantino, cioè poi a un certo punto di fronte a certe cose sbrocca e va oltre quello che dovrebbe andare. c'è comunque chiaro un nervosismo da parte di un allenatore che vede una squadra che per tante ragioni, io penso dovute soprattutto a un carico di allenamenti durante la sosta invernale, una squadra che non è più brillante come era prima della sosta. Ma comunque questo mi sembra un dato di fatto, l'ha confermato anche Marotta, nostro ospite settimana scorsa, che nella pausa natalizia si è caricato molto il lavoro e quindi da qualche punto di vista era anche ammissibile un gennaio di flessione, era anche da mettere in conto e forse da amministrare, come la Juventus che ha comunque 3 punti di vantaggio sul Napoli, forse sta ancora facendo, forse è ancora in controllo. Sì, però sai, l'amministrazione poteva essere migliore, nel senso che se tu guardi la Juventus con la ripresa del campionato ha perso contro la Sampdoria andando in vantaggio e con un uomo in più. È andata a Parma, è andata in vantaggio e si è fatta rimontare, ha giocato la Coppa Italia con la Lazio, una ottima partita pensando a quella che era la formazione, comunque va in vantaggio e a pochi minuti alla fine si fa rimontare e rimette in gioco la Coppa Italia, gioca con il Genoa, va in vantaggio, gioca 25, si fa rimontare e in 25 minuti non riesce, giocando con un uomo in più non riesce a vincere, adesso al di là del fatto del rigore non. Quindi è evidente che c'è qualcosa che non funziona, cioè la Juventus secondo me almeno un paio di punti in più doveva averli, pensava di averli e poteva averli, perché c'erano tutte le situazioni, soprattutto in campionato, favorevoli per non buttare via i punti sia contro la Sampdoria che contro il Genoa, e già vedi che la classifica avrebbe un'altra dimensione. Conte questo lo sa, lo vede, lo capisce, lo percepisce, ha dei problemi di organico, di infortuni che l'anno scorso non ebbe, e quindi forse è chiaro che un po' di nervosismo viene fuori, però capisci che quello che io contesto, che non mi piace, è questa idea, siamo tornati alle vecchie cose della Juve che si sente accerchiata, cioè, ti dico non ne posso più, cioè, sì, sono 30 anni che sento queste cose. Condivido. Basta, Marco. Cioè qual è l'accerchiamento? La Juve accerchiato oppure accerchiati gli altri a seconda delle domeniche, sì, no? Io vedi, capisco che la Juve di fronte a quello che ritiene un torto si arrabbi e protesti. Perché dal momento che tutte le volte che c'è un qualcosa che va a favore della Juve vengono fuori gli scandali nazionali, ancora un po' anche le interrogazioni parlamentari, ci sta anche che allora la Juve dice vabbè, stavolta sono stato danneggiato io ed è giusto che lo si venga a sapere, non può andare sotto silenzio. Il problema è il modo, la misura. Questa è una misura, adesso so che da Catania mi tireranno fuori qualcosa, però voglio dire che la reazione di Marotta può far pulvirenti, capito? Sì. Non la può fare il dirigente della Juventus. Questo è chiaro. Terzo e ultimo punto, arriva nella perplessità di molti. Io vado un po' controcorrente, forse può essere la mossa per una Juventus che si è un po' attorcigliata su se stessa, che non crede più in Matre Quagliarella. Giocatore di esperienza, dal talento, dal carattere ondivago come Anelka, forse può sbloccare qualcosa per una squadra che deve tirare in porta 40 volte per cavarne un gol. Allora però non vai a prendere uno che nei 15 anni di carriera è andato 3 volte in tutto sui 15 gol, giocando in campionati come quello inglese, dove per una punta, giocando soprattutto in squadre come l'Arsenal, il Chelsea eccetera, dovrebbe essere abbastanza, non dico semplice perché non lo è mai, ma comunque abbastanza abitudinario a segnare. Cioè, perché non mi è mai sembrato un vero bomber, le cifre lo dicono. E quindi non è mai stato un trascinatore di squadra, non è Drogba, è la coppia, scusa l'aggettivo, incolore di Drogba. È un giocatore di nome, un giocatore che ha avuto nella carriera dei momenti importanti, ha avuto un'ottima stampa a certi punti, poi comunque è sempre stato uno di cui si parlava anche per il suo carattere. Secondo me, a dirla tutta, mi sembra che Anelka, così come sento anche Lisandro Lopez eccetera, sia la dimostrazione che persino la Juve, oltre a certa gente, non riesce più ad arrivare. Certo. Cioè Anelka secondo me è un'ottava scelta rispetto a quello che servirebbe la Juventus, però se non ci sono i soldi e non ci sono le prospettive, avete visto in Galatasaray cosa ho offerto per Drogba, onestamente la Juve non l'avrebbe mai potuto fare. No, no, questo è evidente, questo è pacifico. Grazie Marco. Ok, un abbraccio. Buon lavoro. Grazie Marco Ansaldo, inviato della stampa. Adesso io, mentre Federico D'Alessandria scrive una considerazione interessante, che tutti i gol presi dalla Juve arrivano da sinistra, dove sono assenti Chiellini per infortunio a Samoa in Coppa d'Africa, sostituiti dalle Ceglie, questa è un fatto tattico che può essere considerato. Pasquale, Torino, di nuovo ascoltatori, di nuovo tutti convocati, 800 24 00 24. Pasquale, dica. Buongiorno signor Genta. Senta, mi permette di far sentire cosa sta dicendo Sabatini a Roma con l'immancabile fumo della sigaretta. Nella circostanza, solamente l'assenza di un regolamento che l'avrebbe aiutato, ma credo che sia stata una cosa detta così, non con un secondo fine. Poi ho letto che era o si trattava di un attacco ai dirigenti. Non c'è questo rapporto tra di noi, quindi io non mi sono sentito minimamente sfiorato da questa cosa qui. Ho rilevato solo delle cose che ha detto, alcune giuste, alcune meno giuste, perché per esempio la questione che è legata al regolamento è una questione che considererei un po' pigra. E dal momento che lui sa che un regolamento esiste, e che è il regolamento generale che tutte le squadre hanno, e un regolamento è costruendo, stiamo pensando di farlo, ma vorremmo fare un regolamento definitivo per il calciatore della Roma, non per la Roma, il calciatore della Roma presente, quello che attualmente è alla Roma, ma soprattutto quelli che verranno negli anni. E vabbè, comunque siamo agli stracci che volano pubblicamente tra Sabatini, come state sentendo, e Zeman. Vi ricordo parole di Sabatini nel corso di questa conferenza stampa: tra le possibilità si sta valutando anche un cambio della guida tecnica. C'è aria di resa dei conti. Pasquale, allora, c'è qualcosa di strano lì a Roma. Sì, abbastanza. Dica. Senta, io le faccio i complimenti per la trasmissione, però mi permetta anche un pensiero al suo predecessore. Sì. Forse per una questione di generazione, ero molto affezionato alla sua conduzione. Comunque, sì, grazie, anche vi salutiamo tutti. Certo. La sua professionalità. E volevo parlare della vecchia signora, tanto per cambiare argomento. Ma io penso che, a differenza di cosa sostenete voi, non sia un problema di nervosismo, di qualcosa che stia rodendo dentro i giocatori o l'allenatore della Juve. Secondo me l'esempio viene dall'alto, nel senso che il pesce puzza dalla testa, come si dice. Quindi? Cioè, a sentire sempre le esternazioni di Agnelli, che ha cominciato chiedendo rimborsi di milioni e cosa, si è creato questo clima nella Juve, per cui come c'è qualcosa che non va, si sentono in dovere di chiedere qualcosa in più. Non andrai così. Sì, no, Pasquale, io capisco benissimo quello che dove lei vuole arrivare. Non andrei così indietro, rimarrei più sulla cronaca, più sul momento attuale. No, capisco, però atteggiamento di rivalsa verso qualcosa che è stato. Sì, ho capito, però insomma, la Juventus li ha intascati alcuni episodi favorevoli e li ha subiti, come in questo caso, alcuni episodi sfavorevoli. Io sono d'accordo con Marco Ansaldo che con questa sindrome dell'accerchiamento della Juventus, o di, a seconda delle domeniche, di tutti gli altri accerchiati dalla Juventus, è diventato un po' noioso e un po' stucchevole, quindi così è. Tutti convocati. È una fase di studio che contempla anche l'idea di poter cambiare allenatore, molto marginalmente, perché è un allenatore che ha fatto bene con noi nonostante tutto e del quale noi siamo contenti. Non siamo per niente condizionati dalle dichiarazioni o dalla dichiarazione che lui ha fatto sabato, che poi è stato rivenduto, comunque presentato, non so, come un attacco ai dirigenti. Non siamo sentiti attaccati perché lui ha citato nella circostanza solamente l'assenza di un regolamento che l'avrebbe aiutato, ma credo che sia stata una cosa detta così, non con un secondo fine. Questo era, era Walter Sabatini, direttore sportivo della Roma, qualche sigaretta fa. Prima l'avevo fatto sentire, un po' in diretta. Queste sono la parte centrale delle sue dichiarazioni. Antonio Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo. Io da ascoltatore, vecchio ascoltatore della precedente gestione, sono contento di essere stato convocato anche dalla tua. Sì. Facevo una piccola osservazione. Hai mancato nella tua, diciamo, podio delle dichiarazioni, in quella di Marotta ti è mancato un passaggio in cui, quando gli è stato fatto notare del possibile rigore per il Genoa nel primo tempo, lui ha glissato dicendo tanto l'avrebbero sbagliato, si è permesso di fare una battuta anche di questo tipo. Sì. No, volevo soltanto dirti, lui ha parlato di distonia fra arbitro addizionale, come si dice adesso, e arbitro centrale, diciamo. Sì, quello è un gran casino, Antonio. Ecco, no, quel rapporto non mi convince per niente. Il rapporto c'è molto da lavorare, come scrive anche Casarin, su questa sinergia tra l'arbitro centrale e l'arbitro di fondo campo. Io sono dell'idea che la decisione ultima vada presa da chi è in campo e ha il fischietto in bocca, quindi secondo me questa esperienza cui si è voluto ricorrere in fretta e furia, no? Sotto la pressione di un'opinione pubblica sempre avvelenata dalle nostre parti, ecco, questo rapporto e questi meccanismi siano da studiare meglio, perché abbiamo visto, è inutile stare a tornare a Catania eccetera eccetera, abbiamo visto che, come si chiama l'arbitro di fondo campo, si chiama Rocchi, è uno di livello, e quello che ha il fischietto in bocca chi è? Ipotesi guida più giovane, allora ci può essere questa influenza del califfo dell'arbitraggio nei confronti di chi è in campo. Io vedo molta confusione in questo rapporto. Sarebbe stato un esperimento da studiare, da provare, da allenare, da introdurre, quindi con una calma un po' maggiore. Ma magari su questo punto, che mi sembra molto interessante, torniamo domani, può essere, maybe, chi lo sa. 800 24 00 24, prima di Orazio da Pescara voglio farvi sentire un altro appuntamento fisso dei nostri lunedì, che è l'Oscar del gol, in questo caso l'Oscar del poker. And the Oscar goes to Icardi. Un altro passo rispetto a Capuano. Se ne va Icardi in area di rigore. Icardi! 2-0 Sampdoria. Grande gol di Icardi. Riparte Obiang, si sta allargando sulla destra Icardi, parte in posizione regolare. Icardi, uno contro nessuno, c'è Perin, la porta è vuota. Icardi! 4-0. Eder, in mezzo c'è Icardi, ancora tutto solo. Tripletta di Icardi che si porta il pallone a casa, 5-0. Colpo di testa di Capuano, poi Munari, lo scatto di Icardi. Capuano questa volta gli prende le misure, poi però attenzione, ancora Icardi dentro l'area. Icardi, quarto gol per Icardi. Ho contratto qua fino al 2015 e voglio fare bene qua. Dopo, se continuo a fare bene, ovvio che tutte le squadre cercano e guardano le partite, però io adesso non penso a nessuna squadra, penso alla Sampdoria. Io l'ho detto sempre, sono argentino, però se la nazionale italiana mi dà questa possibilità per migliorare, non si sa quello che poi succede dopo. Vediamo. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No, no, no, no, no, no. Tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. No. Te lo dico io. Tu hai un dono. Beh, mi pare sia un gran bel giocatore questo che sta avvicinando la Sampdoria alla salvezza, quantomeno la sta allontanando con i suoi gol da zone pericolose. Prandelli l'ha chiamato, vedremo se altra sigla per Sabatini, altra paglia accesa, momento topico, un giorno le contiamo. No, allora Orazio da Pescara, Alessandro da Lucca, e poi sentiamo voci di altri sport, perché nel weekend è successo molto. Sono successe, al di là degli Australian Open, molte cose belle anche per i nostri colori, per gli sport invernali soprattutto. Orazio, buongiorno. Buongiorno, signor Genta. La chiamo riguardo questa sindrome di accerchiamento che lei dice della Juventus, no? Io vorrei solamente far notare il signor De Santis, che ieri si è permesso di dire che Conte e la Juve si doveva vergognare in diretta nazionale, dopo che loro non si sono presentati ad una premiazione davanti al mondo, non davanti all'Italia, davanti al mondo. Il loro presidente se ne scappa in motorino durante le riunioni di Lega dicendo siete della M a tutti i presidenti, e noi ci dobbiamo sentire la morale del signor De Santis ed anche del signor Moratti, che a Mourinho, io non conosco lo Monaco, conosco Bayern Monaco, ho offeso, prostituto i giornalisti, e Moratti dice Mourinho non ha mai fatto queste cose, no, ha fatto peggio, ha dita negli occhi a Villanova, cioè, se calcio nel sedere a un giornalista a Bergamo, Mourinho, non possiamo fare la conta, ma anche noi ci sentiamo accerchiati, signor Zeta, anche le stesse, ma Orazio, non se la prenda così, non se la prenda così tanto, anche se tutti i torti non ce li ha, nel sottolineare comunque che prendersi la morale da chi comunque le fa alla stessa maniera è una cosa quantomeno fastidiosa. In questo lo posso anche comprendere, insomma. Alessandro Lucca. Sì, buonasera. I vergini non ce ne sono più. Che mi dispiace di un altro giocatore che se n'è andato, anche se di una serie minore. Di vergini non ce ne sono nel calcio italiano. Purtroppo sono cose che possono accadere. Per quanto riguarda le cose più leggere, dico che io, come tifoso dell'Inter, al di là di una aspettativa iniziale di campionato dove sembrava che l'Inter insomma avesse delle estreme possibilità di migliorare, di avere praticamente dire la sua in campionato, chiaramente con esagerazioni giornalistiche paragonavano Stramaccioni a Mourinho, sì, che purtroppo è il mio idolo, ma purtroppo rimane un ricordo. Devo dire che l'Inter è diventata come una squadra normale, cioè è una squadra che alterna Alessandro, però posso dire, cioè, certo, l'Inter non ha profondità di organico, perché ieri quando vedi Mudingai a centrocampo, Palacio poveretto là davanti a sbattersi come un pesce nella rete, e Cassano che gioca da fermo e Milito in tribuna col giaccone nero, allora vai? Cioè, l'Inter non ha profondità di organico. Prendi Rocchi come cambio delle punte, voglio dire, per cosa? Riflettiamo su un fatto: migliori dell'Inter ieri Zanetti e Cambiasso, punto. Allora, altri sport. Chi è questo? È sempre Sabatini. No, adesso non c'è più, avete sbagliato il tempo. Rullo, voci di altri sport, a cominciare da Carolina Costner. La cosa per me oggi più bella è stata proprio che sento che è stato apprezzato il mio programma, e quindi tutto il lavoro che c'è dietro, tutta la passione che ci metto, mi dà tanta soddisfazione sentire che è veramente una cosa magari che potrebbe anche un po' cambiare il pattinaggio, ed è quello che è bello. Io adesso sì, ho realizzato quello che ho fatto, bellissimo, soddisfatto su questo primo posto qua, è troppo bello. Adesso domani faccio slalom e poi un po' di pausa a casa e poi vado a slamming e provo a dare tutto, forse magari, e così vado avanti e vediamo. Due grandi imprese dunque del weekend, Carolina Costner e Paris a Kitzbühel. Chiudiamo così, vi aspetto numerosi come oggi, anche domani dalle 14 alle 15. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti.